show. Vogliamo più qualcosa. Allora, Pietro mi aveva promesso che c'erano un sacco di pelati. Sono solo due, però sono cattivissimi. Sì, cioè, questi sono cattivi, li ho visti prima. Questi ci mettono un minuto a venarti. Sì, sì. Per tutte le volte che hai detto pelati, hai detto robe brutte sui pelati. Stasera niente battute sui pelati. Se hai il coraggio le fai e poi ti assumi la responsabilità. No, no, ma io sono sempre stato vigliacco. Ah, ok. Io ci tengo a dire che non faccio battute sui pelati, quindi... Però come va? Scopi. Noi stiamo urlando per cercare di farci sentire da quelli fuori. Non stiamo neanche tanto urlando, cioè se vuoi urlo. Urla, urla un po'. Merde, venite qua dentro! Animali, bestie! E fa denti quello che sta parlando. Si sente che io non parlo così. Secondo me sarà una bellissima serata. Tu puoi fare tutto nella vita tranne gli scherzi telefonici, perché ti riconoscono dopo un secondo. Ma hai presente la famosa ragazza bellissima del corso di teatro? Sì. Che di Piacenza? Sì. Okay. Praticamente volevo farle uno scherzo telefonico. Oh, faccio prodotto signorina Eugenia e lei mi fa Valerio. Esatto. Sembra fantastico la patata. È successo davvero. Wonder. Un applauso alle bionde. Viva le bionde. È un entree questo. C'è qualcuno fuori che è interessato a quello che stiamo per fare? Sì. Il Riccio vuole entrare. Il Riccio vuole entrare. Vuole bere? Giusto, entro già bevuto. Ma allora, pagato? Allora, il biglietto sì, i vini, le birre sono cazzi del locale. Cioè, No, vuole che gli faccia tu una birra. Signorina, lo sa che io le voglio bene. E voglio bene anche all'Exalge. Cioè, in fondo sembrava un posto di poveri comunisti, invece adesso. Invece... Tu vedo che è la seconda volta che opti per questa camicia hawaiana. Mi sembra giusto dare una continuità di stile. Vuoi chiedere al pubblico che cosa ne pensa? Allora, per alzata di mano, un sondaggio. A quanti piace la mia camicia? Va che plebiscito, va che plebiscito. Però delle bionde solo una. Oh, vedi. Vabbè, diciamo, non sei stata imboccata, no. Ecco, un'altra bionda. Vuoi dire qualcosa? Lei sale sul palco, dirà lei. Vabbè, noi possiamo anche provare a iniziare. Cosa dici? Non capisco se c'è gente fuori. C'è gente fuori? Ti piacerebbe. Tantissima? Sì. Ma sai cos'è? Dovresti portare la Loop Station. Una figata. Se noi facciamo lo spettacolo con la Loop Station, mettiamo gli applausi finti, il rumore di fondo finto, cioè facciamo... Sembra che sia un successo. Sì. Eravamo in dubbio se fare altre due serate qua, ma mi sa... L'altra volta è stata la serata della svolta e questa sarà la serata della morte. Io cosa ti ho detto? Prendo i bottini e scarpa, non tornarci più. Posso dire che è stato meglio fare una serata fatta molto bene, una unica, e poi morire dignitosamente? Ma è anche bello fare le serate di merda. Ma infatti, noi adesso la iniziamo, questa serata che magari poi non è di merda alla fine. Ma no, ma noi siamo brutte persone, abbiamo promesso. Chi è che è la prima volta che viene qua stasera? 1, 2, 3, 4, 5, dai, una buona metà pubblico. Avete caldo? State ma lei è da sola? Così, è francese? Sì. Oui, parlano in francese, adesso che ti ho detto di no. Sembra la giornalista francese presente. Un po' generico così. Quella bella figa che parla di calcio. Generico e sessista. Beh, uno i talenti non è che sei scelto. Sei riuscito a mettere un carico da 90, sempre peggio. Vabbè, comunque un applauso a colei che sembra la giornalista bionda figa di Sky Sport. Ah, di Sky Sport. Sì, che però un po' una volta in cui, cioè proprio antipatico. Beh, sei riuscito a fare un'altra gaffa con lei, quindi sei un talento. Comunque stasera ci sarà un susseguirsi di comici, siamo tipo in 5-6, non lo so, non mi ricordo esattamente. Ma la scaletta ce l'hai te. Scaletta ce l'ho io, mi ricordo chi è il primo, e è inutile che facciamo tutte quelle belle cose che ci eravamo preparati. No, già, ecco, ma io le farei. Ma la facciamo? A maggior ragione data la situazione. Va bene, facciamo. Allora, prima di iniziare, una piccola cosa personale. Ieri è stato il compleanno di Valerio Erò, quindi facciamogli un applauso di... Buon compleanno! Grazie. Quanti anni hai compiuto, Valerio? Tu quanti me ne dai? 51. 52. Bravissimo, vedi, questa è una delle cose preparate, l'abbiamo preparata prima. Ci abbiamo perso un quarto d'ora ed è venuta benissimo. L'ha scritta lui ieri. No. Uno dei cinque autori del terzo segreto di Satira, un applauso. No, io ti ho dato uno spunto e tu mi hai detto, è meravigliosa, ci aggiungo del mio, esatto, quello bravo. Quindi adesso questa, quella bella ce la teniamo per dopo, che tra l'altro quella bella è copiata, quindi non è neanche nostra. Vabbè, allora facciamo salire il primo comico. Iniziamo con il primo comico. Allora, premessa, per chi... Non l'abbiamo mai visto, non sappiamo com'è. Esatto, ma poi in generale, per chi fosse qui alla prima serata, questa è una serata di comici scarsi. Sì, è proprio quella brutta questa. Esatto. Cioè, quelli bravi dicono, vabbè, ma c'è il gap in simi perché dobbiamo venire a esibirci all'Exageno. E gli scarti della società comica sono gli unici che siamo riusciti a radunare qui. E quindi comunque vi chiediamo un po' di calore per questi disagiati. Il primo è... Io ho scoperto che esiste oggi. Anche lui. Si narra che da ubriaco io l'abbia guardato e gli abbia detto sali su palco la prossima settimana. Lui non voleva farlo fino a che non gliel'hai detto tu. E quindi farà una brutta figura per colpa tua. Vabbè, comunque è una lezione che prima o poi dovrà imparare. Da te soprattutto. Questo è bello. Facciamogli fare un applauso. Facciamo grandissimo per l'applauso per Luigi Giglio Bianco, credo. Un nome complesso. Buonasera Milano, avete festeggiato lo scudetto, vero? Quanti milanisti ci sono qui in sala? Quanti scudetti le ha vinto, signora? Anche un sacco di Champions, io sono juventino, io ho visto solo finali perse, infatti sono qui per parlare di depressione oggi. Come state? Fate un grande applauso come se aveste sentito la battuta più bella del mondo. Fatemi sentire, bene. Caldi! Sì! Adesso fate un grande applauso come se Sasha Grey fosse ritornata nel porno. Il porno vince sempre sulla comicità, non so perché io sia qui oggi. Comunque, pubblico caldo oggi, vero? No, non è vero, devo fare una fatica immensa oggi. Solo io che ho cominciato da 10 mesi e devo scaldarvi. Mi guardate con questo sguardo, tu sorridi però, mi metti molto a mio agio. Io posso guardarti? No, non ce l'avevo con te. Tu. Mania di protagonismo. Cioè, io ti vedo come un amico, mentre lui lo vedo più come un partner sessuale. Questa cosa non ti piace? Sono un tipo... Di cosa parliamo oggi? Parliamo di cose. Parliamo di cose interessanti. Io, sinceramente, è un periodo un po' strano, vi devo dire la verità. Ho deciso, ora che ho 30 anni... Secondo voi dimostro 30 anni? Di meno? Come 12? Chi ha detto 12? Mi state bullizzando? Ste body shaming. Sei più alto di me. Sarà una lunga serata per me. No, adesso che ho 30 anni, vi devo dire la verità, ho deciso che voglio trasmettere la mia passione a qualcuno. La mia passione per il fumo. Fumo un sacco di sigarette. Non so perché voglio condividere questa mia passione con qualcuno, voglio assolutamente condividere questa cosa con qualcuno e ho deciso di adottare un bambino, orfano. All'inizio è andato tutto benissimo, sono andato in uno stabile, lui mi ha chiamato papà, lì mi sono commosso, ho deciso di adottarlo, è stato tutto molto bello, solo che un giorno mi ha avanzato delle richieste molto strane, cioè è stato proprio in quel momento che ho capito che si trattava di un bambino viziato. Mi ha chiesto di dargli da mangiare, cioè è una cosa che non si fa. Io gli ho detto: guarda, a 7 anni io alla tua età già fumavo, sono venuto qui per farti fare la bella vita. E lui mi ha risposto: no, il mio primo papà mi trattava meglio. E allora lì non ci ho visto più, mi sono arrabbiato e ho provato a restituirlo per lasciarlo ancora più orfano, ma non c'erano i tempi tecnici. E allora sono andato in chiesa, dal nostro padre, dal Signore Gesù Cristo, per lasciarlo sempre più orfano, ma non ha funzionato. Questa era una battuta sul fatto che Dio non esiste. È arrivata dopo, vabbè, so il primo comunque, cioè secondo me dopo è lo scudetto che vi rende così... Perché siete venuti stasera? Per farmi lavorare. Vabbè, ho capito, tu mi guardi con questo sguardo scettico. Va bene. Fai tu, io non vengo. Ok, grazie. Basta così. Comunque no, io ho adottato questo bambino, è andata male sostanzialmente, e ho pensato come faccio a trasmettere la mia passione per il fumo o per qualsiasi altra cosa adesso che ho 30 anni a qualcuno, visto che con il volontariato è andata male. Proviamo con la tecnologia, perché la tecnologia è bella, io sostanzialmente con la tecnologia si fanno un sacco di cose, si conosce gente, si parla, tutte cose che io faccio solo con la mia sigaretta. Vediamo che succede. Sostanzialmente anche la tecnologia mi ha deluso, perché ho scoperto che in Giappone hanno addirittura inventato una TV che è possibile leccare per sentire il cibo riprodotto sullo schermo. Cioè, spiego, per esempio, voi siete in Calabria, vedete un piatto cinese riprodotto sullo schermo, volete assolutamente sentire il sapore, è possibile grazie a questa TV. Avvicinate, sa di cane adottato. A me questa sostanzialmente mi ha dato fastidio, perché io non mi sento molto a mio agio a leccare degli schermi, a meno che dall'altra parte non ci siano altre cose da leccare. Qualcosa di viscido, morbido, talvolta disgustoso. Fabio Fazio, e dovremmo tutti leccare, imparare a leccare Fabio Fazio per sapere. Vabbè. Dovremmo tu. Esatto, sì, è questo. Non l'hai capita? Io sì, cioè, se lo lecchi, sa di servilismo. Tutti dovremmo leccare Fabio Fazio per trovare un lavoro. Pensate, ho cercato su Google Fabio Fazio servo e mi è apparso intelligente, astuto, mellifluo. Io voglio essere proprio come Fabio Fazio, mellifluo. E voglio leccare anche Alberto Angela per scoprire cosa cazzo voglia dire mellifluo. Sa cosa? Questa parola per me è strana. Ho cercato su Google mellifluo e mi è apparso Fabio Fazio che lecca Alberto Angela. Fate un applauso, perché secondo me la battuta era bella. Molto, molto strano. E poi c'era scritto nell'articolo che questa TV è stata inventata da un professore giapponese, sempre loro, i giapponesi, famosi per i manga, i TV, gli incesti, cose orribili come non gli è bastato Hiroshima, Nagasaki, Fukushima, Doraemon, il bukkake su Doraemon, no, sempre peggio, questi giapponesi di merda, incredibile. E ho scoperto sostanzialmente che questa TV puoi leccarla stando comodamente a casa tua, seduto sul divano, il globo della mononucleosi in pratica. È così che ho dato il primo bacio a un piatto indiano, ieri. E praticamente che è successo? Potrebbe essere una cosa utile questa per i primi appuntamenti, cioè non so, sei in giro con lei, non sai come limonarla e a un certo punto dici, ehi, ti va di salire a leccare la mia TV? Questa cosa potrebbe suscitare delle emozioni, così a un certo punto salite su, accendete la TV, vedete, che ne so, un maxi schermo con un sorbetto, con Antonella Clerici, la mamma di tutti noi italiani, cominciate a leccare questo schermo, un sorbetto che comincerà a fare schiuma, ma non sarà sapone, fa schiuma ma non è sapone, che sapore avrà? La borra! Celebre sketch, la borra di Antonella Clerici. E a me questa cosa incredibile mi ha veramente destabilizzato. Io non voglio assolutamente vivere in un mondo in cui al posto di leccare cazzi e fighe nella vita reale dobbiamo leccare sushi e plasmon in HD mentre Carlo Conti dice scossa. No, è un mondo che non mi appartiene sostanzialmente. Sostanzialmente la tecnologia mi rende felice, la tecnologia è bella, io al posto di leccare degli schermi voglio leccare altre cose, voglio leccare i miei amici, perché la tecnologia è bella, ma non ci vivrei. Grazie a tutti. Ci voglio ancora un grande applauso. Dai, dai, dai. Un eroe. Che fare comunque... l'apertura è una cosa d'eroi, noi la facciamo fare sempre a quello nuovo arrivato perché siamo due infami. Sì, no, ma io penso che sia giusto comunque fare l'apprendistato, penso che sia giusto comunque anche preparare il pubblico, dici vi mandiamo il più bravo all'inizio, no, vi mandiamo la merda, poi mettiamo il più bravo in mezzo perché uno si aspetta che il più bravo arrivi alla poi fine. Poi finiamo con la merda ancora. E quindi dal più bravo in poi c'è una discesa. Agli inferi davvero. Perché ci teniamo a... Che trucchi, eh? A deludere le aspettative. Noi è anni che prepariamo queste cose. Vabbè, scusa, spesso mi riprendo. Andiamo avanti dritto, prepariamo allora, un'altra brutta battuta. Ho aggiunto un comico in scaletta, te l'ho detto. Sì, però chiamarlo adesso sarebbe veramente da infami. No, però lo sapevi. Sì, sì, lo okay. So, me l'hai detto un minuto fa, non sono rincoglionito. No, ma io sì. Ok. Allora, chiamiamo? Partiamo. Partiamo. Lei. Lei, l'unica lei della serata? L'unica lei perché abbiamo questa convenzione con il locale che è un po' mezzo comunista, quindi le donne fanno ridere anche loro, hanno diritti anche loro. E quindi... Quindi è così, ci tocca 10 minuti, ridiamo tutti, poi però abbiamo preso la più brutta persona in circolazione. Sì, proprio viene dal popolo peggiore. Vai, dilla. Dico, ho un nome che ho paura di sbagliarlo e che si incazzi. Dimmi. Natalia Vasilishina. La russa! Prego! Бу. Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Как ваши дела? Как ваше настроение? Mi sa che non avete ancora imparato il russo. Atteggiamento piuttosto miope da parte vostra, eh? Vabbè, almeno stasera potete abituarvi un po' all'accento, perché ormai non è più dalla Russia con amore, ma dalla Russia con rancore. Io mi presento, sono Natalia Vasilishina, si pronuncia così. Ma chiedo di chiamarmi la Nata perché è più facile per voi, meno stressante per me. Una volta un tipo ha provato di pronunciare il mio nome, no, non è morto, semplicemente non è riuscito e mi ha chiamato Natalina Vasilina. A quel punto ho pensato di iniziare a fare la carriera di porn star. Lo stai già immaginando? Sarebbe bello, tipo un film di propaganda russa, un film che si intitola Perché entrare nella NATO quando puoi entrare nella NATO. Ma no, io sono la comica, sono la miglior comica russa in Italia, anche perché sono l'unica. Vi ho portato il famoso umorismo russo, spero di non creare tanto gelo. Però se non vi faccio ridere vi spiezzo in due così siamo a posto. Ok. Allora, io faccio tanta fatica di esibirmi stasera, anche perché non ho più il mio repertorio. Da quando è iniziata l'operazione speciale militare in Ucraina, non la posso chiamare in nessun altro modo, perché sono 15 anni di galera e questo non è una battuta. E sì, cioè io faccio fatica di stare sul palco e sparare le cazzate in questa situazione. Cioè io posso, essendo russa, continuare di utilizzare la parola sparare? Cioè posso bombardarvi con le battute? Ammazzarvi da ridere? A continuare di essere una sex bomb? Vabbè, vi spiego un po'. Il mio scopo da comica era di combattere contro gli stereotipi che voi italiani avete verso i russi. Cioè... Io, per esempio, avevo una battuta che chiedevo al pubblico: voi avete paura di russi? E la gente rideva, diceva di no. Mi sa che non funziona più, eh? Cioè, io ridendo e scherzando spiegavo alla gente che noi non siamo così come ci dipingono nel film americani, che noi non siamo i cattivi. No, eh? Ora manca che ci confermino che tutte le russe sono davvero puttane? Oh, ma dovevano avvisarci, no? Io 12 anni che vivo in Italia, la davo gratis. Ma minchia, siete proprio... proprio molto serio, mi sembra di fare un TED Talk. Va bene. Vabbè, in tutto il mondo è iniziata la russofobia, o come a me piace dire, qualcuno ha smesso di nasconderla. Qua in Italia sappiamo chi ha sofferto di più, sappiamo tutti quanti, è stato Dostoevskij. Povero Dostoevskij, dite voi, ma a me non ci dispiace tanto, perché noi leggiamo Dostoevskij, è obbligatorio leggere Dostoevskij a 14 anni. E leggere Dostoevskij a 14 anni è come guardare qualcuno che sta affogando i gattini. Poi magari capite perché siamo così. Però una cosa buona è successa, finalmente un italiano medio sa che Dostoevskij non è una marca di vodka. Parliamo di italiano medio. Salvini, Salvini se ne pente tanto che quel giornata lì non indossavo una semplice maglietta, magari con la scritta, non lo so, tipo da domani faccio bravo, o tutta la notte coca mignotte, o magari, non lo so, keep calm and dux mea lux, no? Così potevo davvero evitare le polemiche. Oh, mi sa che i gattini affogati vi sono piaciuti di più. Torniamo ai gattini. Ci sono tantissime sanzioni contro la Russia. Sappiamo tutti quanti. Qual era più pesante? Hanno proibito ai gatti russi di partecipare ai concorsi mondiali. Come ce lo faremo? Non lo so. Cioè, ma poi mi faccio una domanda. Perché ai gatti no e ai cani sì? Ovviamente mi viene il dubbio che quel film di Disney, vecchio film di Disney che si intitola Come cani e gatti, avete visto quel film? Dove i gatti combattono contro i cani, dove i cani sono buoni, i gatti sono russi. Cioè, pensavo non è una finzione, ma poi no, quando ho scoperto che hanno bloccato anche OnlyFans in Russia, ho detto no, tutto a posto, stanno boicottando sia i gatti che le cani. Poi dal mercato russo sono andate via tutte le case cinematografiche e non ci hanno fatto vedere tantissime premiere di film, non ci hanno fatto vedere Batman. E ho pensato, ma e ora se la situazione non cambierà, cosa farete? Iniziate a spoilerare Batman ai russi? Eh? Vabbè, la verità è che io sono russa a metà. Mio padre è ucraino. Sì, sono cazzi, lo so. E ho pensato, vabbè, visto che devo riscrivere tutto il mio repertorio, cambio anche il nome. È difficile da pronunciare. Mi prendo un nome d'arte. Mia madre è russa, mio padre è ucraina. Io mi chiamerò Crimea Donbass. Questa avete imparato di pronunciare, no? Perché alla fine la situazione non è diversa da come era a casa mia quando i miei si divorziavano. Cioè io mi sento di nuovo una bambina piccola e provo le stesse emozioni. Io ho paura. Il mio mondo è crollato. Io riesco a fare solo l'unica domanda. Perché? Per quel cazzo di motivo io da 12 anni la davo gratis? Vabbè, diciamolo, ha fatto anche cose buone, no? Cioè, finalmente nessuno mi chiede più dov'è la Russia, chi è il vostro presidente? E finalmente quando fuori di un locale un italiano medio, quel famoso italiano medio, mi dice, torna nel tuo paese. Io rispondo, aspetta che stiamo arrivando noi. Vabbè, vorrei che comunque capite che io sono russa ma non praticante. Vabbè, non che ce l'ho con gli italiani, dai, non ce l'ho con gli italiani. Io 12 anni, come ho già detto, vivo qua, sono abituata a voi. Cioè, però voi non avete idea come siete visti dall'esterno. Mettiamoci chiaro la prima cosa, che l'Italia non è solo pizza, mafia e mandolino. 12 anni che vivo qua, dove cazzo sono tutti sti mandolini? Mai visto uno. Cioè, poi voi siete convinti che la lingua italiana è difficile da imparare, da parlare, non lo è, io sono l'esempio perfetto. Sbaglio congiuntivi ugualmente a voi, dico, cioè, nel senso, ogni tre frasi, come voi. Sono riuscita pure di togliere il mio accento russo, ho il perfetto accento rumeno. Quando sono trasferita in Italia, manco potevo comprare qualcosa al supermercato, la mia spesa era molto breve, io compravo solo tre cose, spaghetti, pomidori e vino. Poi quando ho imparato altre parole sono riuscita a dimagrire. Eh sì, perché la dieta di pasta e vino non aiuta la linea, aiuta ad essere felice, simpatica, che già non è poco per un essere umano, figuratevi per una russa. Ma basta parlare di me, parliamo di una cosa di cui voi ovviamente credete che io sono l'esperta, uomini italiani. Anche se io sono arrivata qua per rubare sul lavoro, ecco la conferma, c'ho abbastanza soldi per lo smalto semipermanente. Vabbè. Uomini italiani sono famosi per il modo come ci provano con le donne, però siete americanizzati troppo, cioè io non passo neanche una giornata senza avere attenzione per strada, ma mi sembra di essere nel mondo Disney, la Biancaneve che passa nel bosco e tutti gli animali che escono a salutarla. Poi cos'è sto modo? Fischiano, urlano, fanno i commenti, alcuni addirittura si mettono sotto il balcone a cantare una serenata, con la chitarra ovviamente perché il mandolino non ce l'ha. Io sono molto attenta a creare amicizie anche con gli italiani, perché siete strani, voi create i gruppi, cioè gruppi per la pizzata, gruppo per il calcetto, gruppo per andare a picchiare extracomunitari di merda, che poi sono simili a gruppi di WhatsApp. Cioè, a me sembra che per voi è importante dove andare che con chi andare, cosa mangiare che con chi mangiare. I vegani escono con vegani, i carnivori escono con carnivori, solo i fattoni escono con tutti, perché sono sempre infame chimica. Comunque, sotto sotto siamo tutti uguali, italiani, russi, tranne che una cosa. Io prima di arrivare qua, attraversavo la strada, passata la macchina, da questa macchina un tipo mi ha urlato: "Uè, brutta!" Ecco, la vera differenza è che noi in Russia noi facciamo guidare i non vedenti. Io sono Natalia Vasilishina e sono la conferma che l'immigrazione è una cosa bella. Grazie. E Andrea, gente, no, niente, presento io. Bravissimo, un altro applauso grande. Sembra ormai un animatore. Vabbè. È arrivato quel momento della serata dove il vero padrone di casa si esibisce, il momento di metà dove c'è quello bravo che dicevamo prima. Quindi è con un grande piacere che diamo sul palco Valerio Airò. Deva fa denti! Mamma mia! Grazie. Siete... Io farei 5 minuti in silenzio. Chiedo solo un grande applauso per Marina Abramovic. Allora, signori, questo è perché dici: cazzo, abbiamo riso troppo con Natalia. Bisogna riequilibrare la situazione per tornare un po' nello schifo. Data questa premessa in cui vi vedo già tutti più, un po' più gelidi, un po' più... Anche dopo sale sul palco Matteo Adami, che è quello che abbiamo tirato in mezzo all'ultimo secondo. Quindi è poco pronto. Stiamo andando lentamente verso dove volevamo arrivare. Adesso parto. Cos'è successo? Guarda che se suonava il telefono mentre c'erano i minuti di silenzio era un cazzo di problema, Cioè mi rovinavi tutta la performance. Poi ti devo chiamare a te sul palco. Allora parto con il pezzo e vabbè dai, faccio il pezzo che è sotto denuncia. Visto che ci siamo. No, allora è sotto denuncia, ma c'è un motivo molto, molto semplice. La ragazza è poco inclina al senso dell'umorismo, infatti assomiglia un pochino alla stronza francese. E tutto nasce dal fatto che c'era questa mia amica che è andata a studiare fuori Piacenza, io non la vedevo più, vedevo poco, e quindi ogni 2 o 3 mesi io le mandavo un messaggino con scritto: ciao Elisa, come stai? È un po' che non ci si sente, spero tutto bene. Me lo dai il culo? Per mantenere il contatto. E anche perché chi lo sa come funziona la mente dell'essere umano? Cioè magari questa frase, me lo dai il culo, ripetuta una volta ogni 2 o 3 mesi, le entra nel subconscio e lei una mattina fra 10 anni si sveglierà dicendo: Valerio, voglio darti il culo. Meglio non lasciare nulla di intentato, dico io. Comunque, la denuncia non è legata a questo, ma è legata al fatto che un pomeriggio non c'avevo un cazzo da fare, ho fatto una piccola burla a questa ragazza. Praticamente cosa ho fatto? Sono andato sul suo profilo, ho preso la sua foto e ci ho fatto il meme. Cioè ho scritto sopra la foto: ciao piccolo angelo, e sotto: riposa in pace. Gliel'ho messo sulla bacheca, ho taggato tutti gli amici che avevamo in comune e poi ho scritto nel post: eri troppo giovane per andartene, faccina triste. Passano 10 minuti e mi arriva una chiamata da Elisa e io rispondo, faccio: pronto Elisa, come va? Tutto bene? Figa, Elisa ha la voce spezzata dal pianto, mi dice che sono una merda, che faccio schifo. E le dico: madonna Elisa, non scherzo, non è che... Ma tu lo sai che le persone mi hanno scritto in posta privata chiedendomi cosa è successo? E io cosa devo rispondere adesso a tutte queste persone che sono preoccupate per me? Se mi vuoi reggere il gioco che sei morta. Elisa mi manda a fanculo e poi mi dice: tu adesso cancelli la foto e mi chiedi scusa. E io le dico: no, cioè la foto la cancello, ma non chiedo scusa per uno scherzo di cui sono fiero. Figa, Elisa mi rimanda a fanculo e mi butta giù il telefono in faccia. Passano un paio d'ore, mi arriva una chiamata da un numero che non ho segnato in rubrica, però la naso, capisco. E quindi, con la maturità che ho ormai a 30 anni, non rispondo. Non rispondo, vado a segnarmi il numero in rubrica, così posso andare a vedere la foto del profilo WhatsApp, è il padre. Il padre che dopo 5 minuti mi richiama e adesso che so che è lui non rispondo di nuovo perché mi sto cagando sotto. Lascio passare una mezz'oretta e dico: dai Valerio, porca puttana, hai 30 anni, fai l'adulto, assumiti le tue responsabilità. Chiamo io il padre e faccio: pronto, sì, ho ricevuto una chiamata da questo numero, mi dica... Padre incazzato come una iena, mi dice che non solo ho fatto uno scherzo di terribile gusto alla figlia, ma non le ho nemmeno chiesto scusa. E la figlia tutto il pomeriggio che sta piangendo, quindi mi dice: tu adesso la richiami e le chiedi scusa. E lì mi incazzo io. E dico: no, io non chiedo scusa a sua figlia. Io non chiedo scusa perché non è colpa mia se lei non ha senso dell'umorismo. Io non chiedo scusa perché io rivendico il mio diritto alla cazzata. Il padre molto pacatamente mi spiega che se io non chiedo scusa alla figlia, lui mi denuncia. E non gli interessa nemmeno vincere la causa, vuole solo farmi andare al processo, farlo durare il più a lungo possibile per farmi sputtanare tutti i miei soldi negli avvocati. E lui è pieno di soldi, quindi ce la farebbe benissimo. Anche io gli rispondo: va bene il diritto alla cazzata, però ci sono dei limiti che io ho sicuramente superato. Quindi se non le dispiace io adesso metterei giù che devo richiamare Elisa per chiederle scusa. Richiamo Elisa e faccio: pronto, sì, volevo chiederti scusa per le conseguenze dello scherzo. Non era mio obiettivo farti piangere tutto il pomeriggio. Figa Elisa riparte. Ma tu lo sai che se quella foto l'avesse vista mia zia che soffre di cuore, tu l'avresti uccisa. Mi fermo a riflettere. Cioè, effettivamente, se la foto l'avesse vista la zia che soffre di cuore, che cazzo di figata sarebbe stata? Ma anche per la zia, dico, cioè, molto meglio morire con uno scherzo divertente e non nel sonno in maniera noiosa. Questo Elisa non lo dico per non aggravare la mia situazione. Lascio che si sfoghi fino a che a un certo punto non mi dice: comunque non ci credi, tu mi stai chiedendo scusa davvero, tu mi stai chiedendo scusa solo perché mio padre ti ha minacciato di denuncia. Io faccio: Elisa, ha inciso. Basta, sei una merda, non ti voglio mai più vedere né sentire. Ok, va bene Elisa, hai ragione, solo una cosa, me lo dai il culo. Signore e signori, è stato un onore e un privilegio performare davanti a voi. Vi dico, i 2 minuti di silenzio rimarranno nel nostro cuore, una cosa che abbiamo condiviso, che porteremo insieme, che ci legherà, soprattutto a te spero. Sei fidanzato? Sei più chiare? Sì, no, se fa così picchia, no, no. È solo umile. Preferisco essere legato a te. Sei la fidanzata? Sei la fidanzata? Sono la mamma. Porca troia. Vabbè, ma non ce n'è una libera qua, però. Porca troia, ma che pubblico abbiamo? Ora, Andrea Fadenti, dobbiamo presentare il comico che abbiamo buttato sul palco per sbaglio. Va bene. E fatto a Valerio Ero. Però c'era quella cosa che avevi scritto. No, questa l'abbiamo copiata da una roba, da un meme Facebook. Vabbè, metodo Luttazzi, dai. Sì, esatto, è uno sketch che facciamo. Prima di iniziare lo contestualizzo. Si svolge all'interno di un ambulatorio medico dove un signore anziano va da una dottoressa. Dottoressa, è un dolore al fegato. Beve? Però offro io. Oh, la cosa che ha fatto ridere di più è quella che abbiamo rubato. Ci sarà un motivo. Io c'avevo un vinello. Sì, toh, questo qua, tieni, fa la roba. Cosa vuoi dire 2 parole sul prossimo comico? Ah, no, figa, il prossimo comico. Ah, no. L'hai già detto, stai calmo, sembra che stai avendo un ictus, stai buono. No, ho avuto un attimo e mi hai detto, vuoi dire 2 parole sul prossimo comico? Sì. Pensavo dovessi introdurre te. Ma no, figurati, sul buon Matteo Adami. No, allora, Matteo Adami... Dai, di 2 robe. È leggermente più bravo di Andrea Fadenti. Però questo è sai il come momento... Sai come si risponde al mio paese? Che Andrea Fadenti è leggermente più bravo di tua madre. Allora, mia mamma è morta. Lo so, io per questo lo dico, a me non me ne fotto un cazzo, hai capito? Andrea Fadenti, una brutta persona. Nonché... un amante del black humor, autore, regista e terzo segreto di satira. Dai. Persone che hanno iniziato facendo un film autoriale molto intimo, molto carino, che ha avuto poco successo a botteghino, secondo me ne meritava di più. E niente, poi sono passati a fare quella minchiata dell'Milanese imbruttito. Dove ci sei anche? Vabbè, ma ovvio, io non ho mai detto di far qualità, io lavoro solamente per prendere soldi per andare a mignotte. C'è gente che purtroppo lo conosce e ride perché sa che è vero. Almeno prima che conoscessi la tua ragazza, come hai raccontato in un celebre pezzo dove spieghi che quando ti sei fidanzato hai smesso di frequentare le mignotte. Sì, sì, però rimango un fan. Sento un udder. Natalia! La ragazza russa! Va bene. Andiamo col prossimo? Il prossimo comico! Allora, è salito la volta scorsa per primo, ha detto, vabbè, però ero primo, è difficile essere primo. Adesso l'abbiamo messo in mezzo, c'è anche un po' da rompere i coglioni. Esatto. Matteo Adami! Prego! Grazie a denti, Valerio. Buonasera. Come va? Bene, anch'io sto bene. Grazie per averlo chiesto. Come va, signora? Bene, grazie. È sua figlia? Sì. L'hanno già chiesto? Scusi. Sì. Allora, io sinceramente vi ho portato qua qualche battutina, ma non sono un comico professionista come i ragazzi che sono venuti qua prima di me. Quindi tranquilli, cioè, se voi volete ascoltarle bene, se tu invece vuoi ripassare la filmografia di Batman, o se voi volete insomma fare altre cose, tu metterti la crema per i tatuaggi, lei signora fare un discorso a sua figlia su come le sta dando una possibilità di ascoltare del materiale nuovo, fate quel cazzo che vi pare, tranquilli. Tanto io sono abituato a parlare di fronte della gente che si fa bellamente i cazzi propri, perché oltre a fare il comico faccio un insegnante. Quindi per me è assolutamente parlare, cioè proprio è normale parlare di fronte, che proprio capite, sono anche un po' dislessico, quindi figuriamoci. I miei alunni fanno di tutto fuorché ascoltarmi, tu lo sai, sei giovane, parlottate, bisbigliate, vi alzate senza permesso, andate in bagno senza permesso, fanno le canne manco le passano, ma soprattutto fanno sesso. Tra di loro, non con me, voglio dire, io sono insegnante di italiano, mica di religione. Però, nonostante i miei alunni abbiano lo stesso livello di attenzione che potrebbe avere Putin quando gli parli di democrazia, Natalia ride perché sente parlare della sua terra, ma in realtà è una battuta sbagliata. Se ci pensate, Putin è molto attento quando gli parlano di democrazia. Ma quello che dovrebbe stare veramente attento è quello che gli parla di democrazia. Attento a quello che beve, soprattutto. Buono questo tè. Vabbè. Comunque, nonostante sia un lavoro un po' così, a me piace fare l'insegnante. I miei colleghi, che mi conoscono da quest'anno perché mi sono appena trasferito, dicono che capisco i ragazzi, che sono un insegnante speciale. Me lo dicono soprattutto i colleghi di sostegno, però. Non è il massimo, in effetti. Sono passato dal liceo di Verona, perché non sono di Milano, sono di Verona, sono di un paese della provincia di Verona che si chiama Mozzecane. Lo so, non devo specificare che Mozzecane si trovi in provincia di Verona, si capisce da solo, perché Mozzecane fa rima con una bestemmia, lo so. Però anche se sono passato dal liceo alle professionali di Corvetto, devo dire che non è stato un brutto cambio. Cioè, che cazzo ridete? Cioè, classisti, si vede che siamo a Milano Centro, fanculo. È uguale, cioè dalle professionali al liceo i ragazzi sono uguali, è solo una differenza economica. Alle professionali spacciano, al liceo comprano, ma a parte quello non c'è nessuna differenza. Mi piace essere qua a Milano, anche se in realtà non abito a Milano, abito a Monza, perché Monza costava un po' di meno. Conoscete Monza, no? Famosa per la pista, per le piste in realtà, cioè la pista di Formula 1 e la pista di rally. Ma è famoso anche per la musica, per Morgan, perché è nato lì, che a sua volta anche lui è famoso per le sue piste, tra parentesi. Grazie per aver riso, non ridevi per me, lo so, però ci stava bene. Dopo 3 minuti di silenzio di Valerio Ero, potrò fare i versi, cioè cosa volete. Comunque... mi piace insegnare, sul serio, mi piace anche stare qui, perché Mozzecane, in provincia di Verona, era un posto un po' difficile. Alcuni comici, tra cui Aro e Fadenti, mi hanno detto: Matteo, sei all'inizio, parla degli stereotipi della tua terra. Ad esempio, a Verona siete un po' razzisti. Non è uno stereotipo, no. Una volta a Mozzecane, devo fare una serata, sono andato dal tipo del locale e gli dico: com'è la serata? Adami, il pubblico è un po' freddino. Riscaldalo con delle battute sugli ebrei. No, non voglio fare battute del genere. Voglio dire, uno dei miei migliori amici è ebreo, non potrei mai prenderlo in giro fregandomene di quello che è successo al suo popolo. Tra l'altro un ragazzo bravissimo, pensate, era di Roma, sposato, veniva a Verona perché doveva lavorare lì per l'università 4 volte alla settimana, convivevamo nello stesso appartamento, io tenevo i conti, ogni tanto mi fregavo anche un po' i soldi dell'affitto e delle bollette, quindi siamo i 3-2 l'ebreo. Ero io. È veramente, assolutamente nulla da dirgli, un bravo ragazzo, un bel ragazzo, sposato, non tradiva la moglie, non fumava, non beveva, lavorava tutto il giorno. L'unica cosa è che era spesso in ritardo, però d'altronde si spostava solo col treno, non è che puoi andare da un ebreo e dirgli belli tempi in cui i treni arrivavano in orario. Cioè, sarebbe come andare da una ragazza ebrea che ti piace, chiederle il numero e puntarselo sul braccio. No, è una figura di merda. Tra l'altro, quanto tempo ho ancora? Vai. Volete che vada avanti? Allora, no, Decidete voi in democrazia. Io so che ho fatto delle battute cattive, tra l'altro a voi neanche vi sono piaciute. Però io lo faccio perché penso che sia più giusto che siano i comici a fare delle battute che non avvengano nella realtà. Perché se tu sei razzista nella realtà, ti capita una cosa brutta. Quella che è successo a me stasera. Volete sentirla? Applauso. Scaldatevi. Urlate come se avesse vinto la vostra squadra ieri. Sono interista. Allora, in realtà stasera per me è una serata importante, perché io sono veramente, cioè faccio l'insegnante, guadagno poco, vorrei fare il comico, stasera c'è Valerio Rocchi, è un grande comico, c'è Fadenti che è un grande sceneggiatore, c'è Natalia Vazelishina, come cazzo si pronuncia, che è una bravissima comica e tiene il locale, quindi volevo fare una bella figura. E sono venuto da Monza in macchina. Qual è il problema se arrivi da Monza in macchina? Il parcheggio. Quindi giro, non c'è parcheggio, non trovo un cazzo di buco da nessuna parte. A un certo punto vedo un parcheggio per handicappati e dico, ma sì, ma chi me ne frega? Prendo la multa, devo andare da Rho, devo fare un pezzo, devo essere divertente, voglio arrivare là in anticipo, vaffanculo. Parcheggio? Ce la faccio a parcheggiare? No, non ce la faccio. Perché chi spunta dal nulla? Una Fiat Punto, talmente marcia che le mancavano alcune lettere, cioè alcune parole da alcune lettere dal nome. Era una Fiat Punto, neanche una Fiat Punto. E chi scende da questa Fiat Punto? Sei sceso tu? Io direi che è sceso il contrario di te. È uscita questa magrebina con tanto di turbante. E io lì, ragazzi, sono impazzito, sono sceso dalla macchina e ho fatto: oh! Ma sei abituato a fare così, Islandia? Quel cazzo che ti pare, quanto ti pare? E togliti quel turbante dalla testa! Medievale! Viva il duce! Lo so, ho detto un sacco di cazzate, il duce tra l'altro non mi piace come politico, lo preferisco come salame, ma ci sono altre cazzate su cui vorrei portare la vostra attenzione. Cazzata numero uno, Islandia non esiste. L'ho cercata, ho chiesto anche al collega di geografia, non c'è. Cazzata numero due, anche se Islandia esistesse, le donne non potrebbero guidare. Ma la cazzata numero tre, e concludo, è questa. Vi ricordate quando le ho detto togliti il turbante dalla testa? Se l'è tolto, non era musulmana, aveva un tumore. Non penso che fosse un tumore a cervello, perché quando ha cominciato a colpirmi mi sembrava abbastanza attivo, voglio dire, penso di più ai polmoni, perché nonostante io fumo due pacchetti di sigarette al giorno, sono riuscito a scappare abbastanza agilmente. E quindi ragazzi, questa è la morale della storia. Il razzismo va bene per farci delle battute, ma nella vita reale ci fate solo delle gran figure di merda. Grazie! Matteo Adami! E adesso, signori, arriva il punto più basso di tutta la serata, il comico più scarso, una persona che io non stimo né umanamente né soprattutto artisticamente, una persona che se non mi desse da lavorare, col cazzo farei serate con lui. Signore e signori, Andrea Fadenti! Grazie Vale per la bella presentazione, come sempre. Io ho un mese che cerco una presentazione di merda per introdurre Valeria. Il problema è che se io dico, ah, Valeria Rho, quello che caga per terra, che fa questo, che fa quell'altro, tanto comune rimane sempre meno di quello che Valeria Rho fa di solito nella vita. Quindi non è facile fare delle presentazioni brutte per Valeria Rho. Comunque, come va? Vi state divertendo? Avete caldo? Beh, beati voi, io sì. Vabbè, iniziamo. Io non ho niente da raccontarvi di particolare, anzi, o meglio, volevo iniziare con una domanda che ho da qualche giorno in testa. È una domanda alla quale non riesco a dare una risposta, e visto che stasera siamo non in tantissimi, però siete comunque più di una persona, magari riuscite a darmi una risposta. E la domanda in questione è: come fanno i ciechi a pippare cocaina? Nessuno, se mi hai fatto questo tipo di domanda, nessuno ha mai pensato a questa cosa qua. Provate a pensarci. Come fa un non vedente a pippare cocaina? Cioè, deve prendere la cocaina dal sacchetto, metterla su un piano, tritarla con la carta di credito, preparare la strisciolina, prendere la banconota, arrotolarla della giusta dimensione, portare la banconota alla narice e posizionarsi esattamente sopra la strisciolina. La mia domanda è: come fa un cieco ad essere così preciso? Io mi sono dato questa risposta. Cioè, secondo me il cieco non fa come noi che pippiamo, che fa la strisciolina e basta. Il cieco butta un bel tappeto di cocaina sul tavolo e fa tipo aspirapolvere. Quello che pippa, pippa. Da qui ne deduciamo che i ciechi cocainomani sono persone molto ricche. Cambiamo argomento. Vedo che con gli handicap non c'è feeling stasera. Cambiamo drasticamente argomento e vi dico una cosa che mi piace, una mia passione. La cosa che mi piace dei pedofili è che, tolto il fatto che si scopano bambini, sono persone di solito rispettabili. Cioè, mi rendo conto che può essere un ragionamento un po' difficile da capire, da gestire, ma provate a venirmi dietro. Il pedofilo, per fare la vita che fa, non fa la vita che facciamo noi, non fa una vita campata per aria dove è preda delle tasse, del mutuo, delle guerre, dei litigi con la fidanzata, dei problemi sul lavoro. Il pedofilo, per fare il pedofilo, deve avere la barra un po' dritta, perché per esercitare il suo vizio deve avere uno stile di vita, come dire, abbastanza metodico. Quindi di conseguenza il pedofilo è una persona precisa, è una persona puntuale, è una persona silenziosa, è una persona che paga le tasse, è una persona che paga le multe, è una persona che ha affetti stabili, è una persona che ha un lavoro stabile, non è una persona che fa festa alle 3 di notte con la casa piena di gente. Cioè, il pedofilo tiene un profilo basso perché non vuole la polizia in casa. Il pedofilo alle 8 di sera ha già spento la televisione ed è in camera da letto sul dark web. Il pedofilo, tolto il fatto che si scopa bambini, è un vicino di casa ideale. Gli appartamenti con i pedofili di fianco dovrebbero aumentare di valore, non diminuire. Ma questa cosa qua mi rendo conto che siamo troppo presto per poter parlare di questi argomenti. Comunque faccio una piccola digressione. Quanto è bello andare al ristorante a fare un pranzo, una cena con la propria compagna, con il proprio compagno per un avvenimento, compleanno, compleanno, una laurea, qualsiasi cosa, un bel pranzo e farsi rompere il cazzo per tutto il tempo del pasto da dei bambini che urlano, da dei bambini che corrono in giro, urlano, rompono i coglioni con i genitori che se ne battono il cazzo. Quanto è bello. Io non ho niente contro i bambini, ma quando mangio non li voglio intorno. E visto che non si può interdire ai bambini l'ingresso ai ristoranti, perché non far gestire i ristoranti ai pedofili? Non tutti i ristoranti, i migliori. Tra l'altro c'è sempre questo dubbio che ho in mente, è una cazzata, ve la dico. Tutte le volte che l'ho detta non ha fatto ridere, ma secondo me è un paradosso molto grottesco. Quanto deve essere paradossale la vita di un sommelier pedofilo? Cioè, più il vino è vecchio, più mi piace, più il cazzo è giovane, più mi piace. È un contrasto strano, cioè, da una... Vabbè. Ma è una cosa che mi viene in mente. Infatti di solito la facevo, la gente rimaneva basita, però beh, invece c'aveva qualcosa che mi fa ridere. Vabbè, io comunque non sono un pedofilo, ci tengo a dirlo dopo 10 minuti, anche se non è che non lo sono per mancanza di passione, perché parliamoci chiaro, la figa giovane piace a tutti, per questo è illegale. Infatti, se ci fate caso, non esistono leggi che vi vietano di scopare con le novantenni. Nessuno di voi finirà mai in galera per aver scopato con una troppo vecchia, a meno che non sia morta, ma questa si chiama necrofilia ed è tutto un altro campionato. Io comunque non ho la caratura morale per essere un pedofilo, perché ho un problema: mi piace la droga. Fumo erba tutti i giorni, ogni tanto prendo l'MD, ogni tanto prendo i funghi allucinogeni, la sera esco, un gin tonic me lo bevo, la mia fortuna è che pippo poco. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma la cocaina, l'utilizzo di cocaina è associato a chi di per sé fa uno stile di vita un po' borderline, cioè che già fuma sigarette, beve, mangia cibo spazzatura. Quindi la mia domanda è: ma secondo voi un cocainomane vegano esiste o no? C'è uno di quelli che al mattino prende cereali, semi di lino, frutta secca, frutta di stagione e poi si fa una bella botta per partire carico con la giornata. Secondo voi esiste una cosa del genere o no? Robin Scheller dice sì, probabilmente ho preso quello con entrambe le passioni. Grazie, bevo perché sto sudando come un cane. Cambio di nuovo argomento, anzi no, non cambio argomento, vi dico solo un'altra cosa sui pedofili e poi cambio argomento, perché c'ho da dire tanto sui pedofili, è proprio una cosa che sento. No, questo meccanismo per cui i pedofili, appunto, abbiamo detto prima, hanno un sacco di pregi e sto brutto difetto che gli piace i bambini, non gliela togli sta passione. E quindi però vengono valutati male, ed è un meccanismo un po' di merda, cioè tu hai tanti pregi e un difetto e vieni valutato male. È un meccanismo truffaldino, cioè facciamo anche il contrario. Tu hai tanti difetti, ma un grande e riconosciuto pregio e vieni trattato bene. Faccio un esempio, Hitler, uomo di merda, ma signori, ma che caffè che fa? Mi immagino la scena. Tu sei a casa di Hitler perché ti ha invitato a bere il caffè, e già è strano. Tu hai detto sì ed è ancora più strano. La mia domanda è: su quale argomento può vertere la conversazione con Hitler? Cioè, da quando il caffè è in tavola, tu puoi sempre parlare di come è buono il caffè, di dove ha imparato a farlo, di quanto tempo ha passato a Napoli. Ma da quando carica la moca, a quando la moca fa in quei lunghi 5 minuti, tu, con Hitler, di cosa puoi parlare? Sei seduto a tavola, guardi la moca, guardi il Führer, guardi il centrotavola ricamato a forma di svastica e fai a Hitler l'unica domanda che gli puoi fare in questo preciso momento storico. Lo guardi e gli fai: ma Putin? Che non è tanto una domanda, ma è più un se cerchi un'intesa, l'hai già buttato lì la tua mezza risposta, quindi deve solo fare un cenno e tutte e due più o meno la pensate allo stesso modo. La dedico alla ragazza russa questa. Comunque adesso cambio davvero argomento, ho chiuso con i pedofili, parlo un po' di amore. Sono fidanzato da 5 anni con una ragazza maggiorenne, ed è una ragazza un po' particolare, nel senso che è una ragazza che ha un sacco di qualità, è molto colta, conosce tante lingue, le piace viaggiare, è molto spirituale, non è attratta dalle cose materiali, ma è attratta dalle cose davvero non tangibili, dalle cose spirituali, ha attenzione per gli ultimi, quindi è una ragazza che ha tutta una serie di valori progressisti di sinistra, ma che però esprime in una maniera un po' forte, un po' di destra. Cioè, avete presente la dittatura illuminata? Ecco, la mia ragazza è la dittatura illuminata. E tra tutte le cose nelle quali cerca di fare ordine nella mia testa c'è l'argomento femminismo. Ovviamente molto femminista, e da anni mi fa una testa così per farmi capire come anche oggigiorno le disparità tra uomo e donna siano tremendamente presenti. Le donne lo sanno, disparità da un punto di vista sociale, economico, lavorativo. Basti guardare i dati, gli ultimi dati, le statistiche. Pensate infatti che anche nel 2022 in Italia, in un rapporto di coppia, 7 donne su 10 rompono il cazzo. Bevo non per l'applauso, bevo per cosette. Ho fatto il problema di fare queste battute qua, che non capisci, generano sempre comunque freddezza, no? Perché c'è sempre qualcuno che pensa: ma starà dicendo sul serio, pensa esattamente questo? E mi è successo un po' di tempo fa in un locale a Milano, ho fatto questa battuta qua, fine spettacolo, sono a bere al bar, si avvicinano 3 ragazzi, mi fanno i complimenti, non erano proprio più svegli del locale, mi fanno i complimenti, dicono: cazzo, la parte che ci è piaciuta di più è quella sulle donne, perché, cito testualmente, dice le stesse cose che pensiamo noi. Al che io ho fatto subito un passo indietro, ho alzato le mani e ho detto: ragazzi, voi non mi dovete prendere sul serio, cioè io non penso esattamente quello che dico, io non credo che 7 donne su 10 rompano il cazzo, 10 donne su 10 rompono il cazzo. La signora mi sta guardando malissimo. Signora, non penso quello che dico, l'ho appena detto. Un pochino lo penso. Chiudo con l'ultima cosa, che è un aneddoto successo 80 anni fa, 20 anni fa, un aneddoto di molestie sessuali che mi vede protagonista in prima persona, come vittima, meglio specificarlo perché se non sai dove va a parare il racconto puoi sempre avere un dubbio. La faccio breve, avevo 20 anni e volevo fare lo scrittore, facevo l'università e tramite mio padre conosco un suo amico coetaneo, un sessantenne che di mestiere scriveva libri, romanzi storici un po' di merda, ma comunque scriveva libri. Vuole lavorare con un ragazzo più giovane perché vuole svecchiare il linguaggio, quindi dice: io scrivo la mia roba, tu scrivi la tua, la integriamo e facciamo un grande libro. Ci vediamo, facciamo una sorta di riunione, c'è anche mio padre presente, iniziamo a lavorare, scambiamo un po' di mail, iniziamo a scrivere sto cazzo di libro. Dopo un po' di tempo mi invita ad una conferenza a Ferrara, a 3 ore di macchina da dove viviamo noi, e mi dice: vieni con me, ti porto io, poi ti porto a casa. Vieni elegante, completo, giacca e cravatta. Vado in macchina con sto tipo, arriviamo alla conferenza, mangiamo, beviamo, ci divertiamo, ascoltiamo i relatori, torniamo indietro. Sulla strada del ritorno, a metà strada, questo tipo, dopo una frase che non ricordo, una frase un po' paternalista, mette la sua mano sulla mia gamba, più interno coscia, e indugia per qualche secondo. Io non dico niente, lui non dice niente, ed è subito bravo a togliere la mano e a cambiare discorso. Arrivo a casa sano e salvo. Passa del tempo, non ci sentiamo. Mi chiama e mi dice: ti devo assolutamente vedere. Ci vediamo di nuovo in macchina, non so perché questa cosa, il molestatore in macchina, però c'è sempre questo binomio. Siamo di nuovo in macchina e mi dice: sono molto contento di lavorare assieme, non allude all'episodio precedente, e mi dice: però per continuare a lavorare assieme devo sapere di potermi fidare di te. E gli dico: ti puoi fidare di me? E lui: ho bisogno di una prova fiducia. E io: dimmi qual è la prova fiducia. E lui: mi devi fare un pompino. Strana prova fiducia, penso. Ma decido di stare al gioco e gli dico: guarda, anche io però devo sapere di potermi fidare di te. E lui: ti puoi fidare di me? E io ho bisogno di una prova fiducia. E lui, dimmi qual è la prova fiducia. E io ho bisogno che ti fidi sulla fiducia. E lui, ma come faccio a fidarmi sulla fiducia se non fai la prova fiducia? E io, ma la mia prova fiducia consiste proprio nel fatto che tu ti fidi sulla fiducia. L'ho spiazzato. Sono andato avanti mezz'ora e alla fine l'ho convinto a farmi fare un pompino. Grazie signori. E con vero piacere e dopo aver sudato come un cane rabbioso, che chiamo sul palco Valerio perché abbiamo un duo incredibile da introdurre. Abbiamo... Grazie. Allora però il prossimo duo li hai raccattati te, quindi devi introdurre te. Cioè io conosco una parte del duo da un sacco di anni e posso garantire solo per quella parte del duo. L'altra allora, parte non la conosco, l'ho sentita prima, mi ha fatto impazzire e quindi... Posso dire che l'altra parte c'ha un cappellino bellissimo. Può solo fare bene. Secondo me no, però c'ha un cappellino bellissimo. Quindi vi dico, questo dovrebbe essere un pochino un rialzo rispetto a Fadetto. Vabbè, ci vuole anche poco. Sai cosa ho di buono? Che io sono un bravo ragazzo e ho buon cuore. Io sono autoironico. Questa è la differenza tra me e te. Però ti metto le mani addosso un giorno. Mi difende la signora. Secondo me la signora le mette addosso a me se sto qua ancora due minuti. Robin e Amir! Buonasera. Facciamo così. Io mi chiamo Robin e sono il comico, lui Amir è un beatboxer. Per chi non sapesse cos'è un beatboxer è una persona che sa fare questo. Beh, glielo potete anche fare. Anche perché ve lo dico, Amir è stato vice campione italiano di beatbox. È vero, eh? È vero. Dovete sapere che in Italia sono in due a fare beatbox. È vero. No, è vero. Da quando ha 12 anni studia beatbox, lui tutte le mattine, da quando ha 12 anni, scalda la voce, appena si sveglia. Poi vabbè, prima andava a scuola, adesso lavora, quando tornava da scuola, torna da lavoro, si allena, proprio fa così. Tutti i giorni, eh? Poi è giovane, la sera esce, però prima di andare a dormire... Tutti i giorni, eh? Dovete sapere che Amir a casa sua ha rotto i coglioni. Cioè, proprio, i genitori lo odiano. Conferma la mamma, sì. Che stasera mena tutti. Vabbè, vi starete chiedendo cosa hanno in comune, beh, un argomento un po' trattato, però, stasera, però, cosa hanno in comune un beatboxer o un comico? Ve lo mostriamo. Musica. Sono passati 2 anni, ma io e Amir amavamo andare a ballare. A noi ci piacciono i rave party. Non so se avete presenti i rave party. I rave party non sono delle feste, sono delle esperienze mistiche trascendentali della Madonna. È un'esperienza mistica trascendentale della Madonna solo capire dove fanno sti cazzo di rave party. Luoghi dimenticati da Dio, luoghi in cui anche il Tom Tom si rifiuta di portartici. Alla prossima rotonda, non uscire a destra, scegli la vita. Ma tu non l'ascolti, lo prendi e lo butti via con sdegno, cosa della quale ti pentirai al ritorno, perché sarai costretto a tornare a casa seguendo le indicazioni dell'autostrada. Se sei fuori, passa al volante. Ma finalmente arrivi al rave party. Il rave party, signori e signori, è il tempio della droga. Al rave party troverete qualsiasi tipo di droga, quelle più conosciute tipo l'erba, la marijuana, l'hashish, la cocaina, l'anfetamina, l'LSD, ma anche quelle sconosciute e introvabili tipo il Crystal Ball e la Coca-Cola con l'aspirina. Siete un po' troppo giovani per il Crystal Ball, eh? devo riadattarla per il pubblico più giovane. Vabbè, ma parliamo di quelle più conosciute, tipo la marijuana. Fammi, dai, la marijuana. No, più marijuana. Oh, oh. La marijuana è una pianta! Piantatela! C'è accanimento sulla marijuana dal 1999, doping sportivo. Ma adesso mi dovete dire chi è quel coglione che si fa un cannone prima di andare in campo. Cioè, te lo immagini Federer fatto di gancia alla finale di Wimbledon contro Nadal? Rimbalza! O nel rugby, dove tutti vogliono la palla, dammi la palla, dammi la palla, la palla è mia, quello fatto di gancia. Tieni, cazzo, me ne frega. Hanno sospeso per 5 anni un lottatore di box, Nate Diaz, perché si è fumato un cannone. Ma è un coglione! La marijuana diminuisce i riflessi e aumenta la resistenza. Le ha prese per più tempo! Mi ricorda quello del pugile che va all'ufficio getti smarriti e il tipo gli fa: che cosa ha perso? L'incontro. Però ci dobbiamo caricare perché siamo a un rave party e soprattutto siamo di Milano e Milano ha un record perché è la terza città in Europa per consumo di cocaina! È vero, eh? E Milano è al terzo posto, le altre due sono Londra e Lugano. Che Lugano è l'unica città che giustifico, d'altra parte che cazzo fai a Lugano, no? Ma come fanno a sapere che Milano è al terzo posto? Fanno delle analisi nelle acque fognarie. Io da quando l'ho saputo, quando sono qui a Milano, bevo solo acqua del cesso. E guardo al calcare con altri occhi, eh? Usate la tessera Exalge. Però ci dobbiamo calmare, Amir. Ci calmiamo e lo facciamo con l'LSD. Anzi, dedichiamo un piccolo rap all'inventore dell'LSD, lo scopritore, il chimico svizzero Albert Hofmann. Potete battere le mani, eh? È un rap. Fino al 1941 questa droga non la conosceva ancora nessuno. Hofmann la scoprì quando gli cadde una goccia su un braccio. Io invece, grazie a un carico di spaccio, ne scoprì gli effetti tornando a casa in bicicletta. Il chimico svizzero pedalava senza fretta. Pedala, pedala, la strada si allungava. Pedala, pedala, un drago e una maiala. Pedala, pedala, la bici gli parlava. Pedala, pedala. E pensate che non aveva neanche slegato la bicicletta. Ma a rave party ci vai per la techno, ci vai per la musica, ci vai per il DJ. Tunz, tunz, tunz, tunz, tunz, tunz, tunz, tunz, tunz, tunz, tunz, tunz, tunz, tunz, tunz, tunz, tunz, tunz, tunz. All'inizio può non piacere, ma alle 2 del mattino arriva DJ Amir. Nessuno. È come la telecamera di un film che parte da un particolare, si allarga a prendere tutta la prima fila, si allarga a prendere tutto il pubblico, si allarga a prendere la città, l'Europa, il mondo, lo spazio. Questo è un piccolo passo per un uomo. È un grande passo per la comunità, San Patrignano, eh? Finché piano piano la telecamera del film torna a stringersi su un punto fisso. La figa. e la vedi? Cazzo, l'amo! L'amo veramente, vero amore! Ma non ho il coraggio di dirglielo, devo farmi coraggio! Figura di merda. Ma lei, che ha rave da una settimana, è fatta, nel senso che è più fatta di te. Allora via, è iniziata a ballare, a limonare tutta la notte finché non sorge l'alba, e poi continuate a ballare, a limonare finché non tramonta, e poi ballate, limonate, sorge l'alba, e poi tramonta, e ballate, limonate, e poi ballate, limonate, sorge l'alba, perché così? Perché il drogato è un romantico. È un romantico perché si è bruciato il cervello ed è costretto a ragionare con il cuore. Amir! Robin Scheller. Bene, facciamo ancora un grandissimo applauso per la performance. Robin Scheller e Amir. Amir. Adesso siamo a un bivio. L'ultimo comico o altri 10 minuti di silenzio di Valerio. Fai beatbox, Valerio. Io non vorrei umiliare Amir. Fai giusto un assaggio, fagli sentire per fargli capire chi comanda. Ma lo vuoi proprio col culo? Proprio una roba piccola. Lo vuoi col culo? Fa anche col culo. Amir piangerebbe troppo, signori. E non vogliamo farlo piangere. Signora francese. Sai che la signora francese... Ma lei è francese. No, lei vorrebbe, almeno prima di questa sera, aveva piacere a esibirsi qua e quindi è venuta a vedere com'era la serata. Adesso vabbè, bisogna capire se avrà ancora piacere. Ma vabbè, ma maggior ragione. Allora, lei quanto schifo fa dentro? Cioè, umanamente, dico. Non a livello di igiene, umanamente. Ah, la quota bella persona, quella da rovinare. Abbiamo tutte le volte una quota bella persona. Ma abbiamo già Vitale la prossima, eh? Averci Alberto. Abbiamo Vitale. Già una bella persona per la prossima. Se non conoscete... No, è un pezzo di merda? Ma allora, no. Allora puoi venire. Ma un cucciolone Vitale. Va bene, adesso vi raccontate i cazzi vostri, potete andare avanti altri 10 minuti. Ragazzi, secondo voi, Alberto Vitale, così a sensazione dal nome, una bella o una brutta persona? Uno ha urlato a caso, ha urlato sia per la brutta sia per la bella. È una bella o una brutta persona? Ma a te cosa cazzo ci fai qua? Cioè, scusami. Ma con chi ce l'hai? Cosa stai facendo? Qual è il problema? Chi è? Con chi ce l'hai? Vuoi menare uno? Ma lo conosci? Ma lo conosci? Scusami, ma perché? Ma vi siete amici? Posso dire giustamente? Ma perché te la sei presa con... Te vorresti fare 5 minuti adesso sul palco? No, oh, chiamiamo uno dal pubblico. È il momento, dai. Chi se la dai, sente? Chi è che se la sente? Tu ragazzo. Che bastardo! È la prima volta, ragazzo. Tu ragazzo con la faccia pulita, è la prima volta? Prego, allora chiamiamo un grande il campione. Applauso a questo giovane esordiente. Come ti chiami? Simone? Luzzi, bene, bravo, sali. Un applauso a Luzzimone. No, ma portatelo, cazzo te ne frega, portatelo. Sapete, fino a un quarto d'ora fa pensavo di essere competente in qualcosa nella mia vita. Pensavo, dico, magari faccio ridere. Poi ho visto a loro, mortacci vostri, possiate veramente morire sotto un camion carico del vostro talento, pezzi di merda, bravissimi, stronzi, però bravi, però stronzi. Oh, che nervoso. Comunque qualcuno fuori ha lasciato un pacchetto di tabacco, è Pueblo, quindi non li biasimo. Di chi è? E infatti, come me l'aspettavo, tanto nessuno. Dai, andiamo avanti. Non so davvero che dire, dopo una cosa del genere, come cazzo fa essere sul palco? Deve finire loro, no? Ah, Era tutti d'accordo a parte te. Tu ci credi in me, di la verità, tu ci credi? Io no, però andiamo avanti. Oh, qua che c'è scritto? Branchie, ragazzo, treni, safari. E lì sta la spesa. Dove fa... O c'è la serata indie o qualcuno è schizofrenico qua dentro. Che è sta lista? Branchie, ragazzo, treni, dentro safari, scarpotte, non amarsi, isole Milano, venditti. Io, trovatemi per favore, che cosa cazzo significa tutta sta roba. Immagino sia una scaletta. Nomi di canzoni. Tu le vorresti sentire una canzone che si chiama Venditti? Cioè, già non mi piace Venditti, c'è pure una canzone sopra. Magari Venditti. Eh? No, no, due T. Forse dialetto. Dialetto. Mannaggia, il dialetto è il talento loro. Porca puttana! Ok, scusate. Che dire, ora... Ma appunto, no, quando me lo merito, come se l'ha meritato loro, io vi giuro, stavo seduto, sentivo loro che facevo e ripensavo alle mie battute del cazzo. Vabbè, mo vediamo, più che altro, sì, avevo deciso di cominciare con sta cosa, mo non c'è senso, però cominciamo. Ieri sono uscito per la prima volta dopo anni appositamente per comprare dei preservativi. È uno stato d'animo particolare. Uscire solo per quello, dopo tanto che non lo fai, è una cosa che ti dà letizia, gioia, gaudio. Io sentivo che potevo raccogliere un fiore per strada, andando a comprare, dico, stasera faccio sesso, capito? È stato tutto rovinato dal fatto che, siccome io non so cosa scegliere in farmacia o al supermercato, ho dovuto affidarmi alla mano e alla mente esperta, ma malata, del proprietario del sexy shop. Qualcuno mai qua è mai andato a un sexy shop qua stasera? Vabbè, Natalia, tu, te lascia perdere. Però qualcuno? Niente? Contavo di fare un po' di chiacchiere sui sexy shop, posti orrendi. Cioè, ti fanno sentire sporco dalla prima all'ultima cosa che fai là dentro. Già che devi entrare e dei citofonati te guardano dalla videocamera come fosse una casa del crack. Posso? Oh, grazie. Entri, sei tutto gobbo. La mia esperienza che me l'ha fatti odiare è stata 3 anni fa, mi frequentavo con una ragazza molto moderna, così moderna che adesso è un loro, e praticamente è moderna, e praticamente è un loro, non si ride su queste cose, bigotti, però siccome era moderna aveva anche gusti moderni, quindi ho deciso di fare un regalo che potesse confare i suoi gusti, e mi vergognavo perché era pieno di maniaci, e quindi ho parlato col tipo e ho fatto, vorrei quello, e siccome quelli del sexy shop non parla mai con nessuno, sta sempre là dentro, non vede l'ora di parlare ad alta voce, ah, il collare di borchiato di pelle bergamasca, ottima scelta, zitto, shh, non voglio che gli altri maniaci sappiano le mie manie, io sono maniaco in privato, questi sono maniaci in pubblico, questi scappa qua, si fa una sega, zitto. Uff. A proposito di godimenti, qualcuno è milanista? Tu sei milanista? Non sembri felice, che cazzo? Sì, sono felice. Sembra, lo dici con la faccia triste, pronto, credo! Sono tifoso, sì, lo dico un po' triste perché c'ho un fratello in Italia. Ah, brutta cena quella ieri sera, eh? Brutta colazione, come fa? Io bene! No, vabbè, ho visto ieri, sono uscito i festeggiamenti. Carini, un bel po'. Mi sono chiesto chissà che fine ha fatto i fuochi d'artificio che aveva comprato gli interisti. Cioè, l'ha sparato uguale piangendo, che ci ha fatto? Oppure l'hanno messi dentro quel cassetto che tutti ci abbiamo, delle delusioni, insieme tipo al vestito della laurea che non hai mai conseguito e tutti i biglietti dei concerti del 2020, l'ha messa là dentro, prima o poi, e chiudi e non lo vedi mai più fino a quando non ci metti la richiesta respinta di pensione. E detto questo, io ero molto invidioso ieri sera dei festeggiamenti dei milanisti, in quanto non mi è mai piaciuto il calcio. Avrei voluto far parte di questa comunità. Io non ho mai fatto parte di una comunità grossa che inglobasse tutta Italia come il calcio. Mi sono sempre sentito fuori dal gruppo, tipo Gramsci. Capito? Io così, tipo, non mi piace. E tutti mi insultano, capito? Non ci posso fare niente, fanculo. Vabbè. Questa faceva ridere a me, non dovete ridere per forza. E insomma... no, cioè, mi è sempre interessato questa cosa della comunità del calcio, una comunità così coesa da parlare in prima persona. Ieri abbiamo vinto, non avevo sta cosa. Cioè, io sono felice se il mio amico scopa, ma non è che dico abbiamo scopato, capito? Non è, È stato difficile all'inizio, ma alla fine abbiamo scopato. Non è roba... strano. In più, ho visto questa comunità di persone, a quanto pare così virile e maciste da usare la parola frocio come insulto, e sono andato allo stadio una volta per vedere com'era. L'ambiente più gay che io abbia mai visto. Baci da stampo, abbracci, pacche sul culo, schicchere sul cazzo, go! Ma infatti ieri la manifestazione era praticamente un gay pride, più gay, perché gay pride non ce l'ha i fuochi artificio. Siete mezzi nudi sopra i lampioni, stavate dicendo, sì, abbiamo vinto, calma. Gay, no, che io no. Bizzarro, strano proprio, non lo so. Un sacco di cose mi succede da piccolo. Mi è successo spesso tipo che i miei genitori mi davano dei consigli o delle cose, tipo mi hanno detto una volta, c'è il miele da tanto tempo in casa, puoi mangiarlo perché il miele non scade, in quanto l'hanno trovato ancora commestibile nelle piramidi. Che cazzo, capito? Strano. E io mi sono detto sempre, chissà che cazzo di fame ci aveva sti archeologi. Che entra dentro una piramide, immagino con la lanterna, no? Vedi sto vaso dei 50 secoli, lo scoperchi, trovi il miele e mangi con la fame disperati, assaggi, tipo Winnie the Pooh. Oh, rabbia, capito? Ma cazzo stai messo? Che archeologo sei? Come lo dici poi altri archeologi che buoni? Archeologhi, Dio mio, tu sei maestro d'Italia, scusa. Cioè, come lo dici agli altri archeologi? Secondo me è buono, come lo sai? Mi diceva sempre anche mia madre che se esco di casa e ho il portafoglio, di metterlo in una tasca dove lo sento, così che se me lo rubano me ne accorgo subito. E mi sono sempre chiesto, poi? Che ci faccio con questo tempo extra? Tipo, mi ha rubato il portafoglio! Oh no, ma com'è la reazione? Boh, è come il cibo, quando cade sotto i 5 secondi non è reato, ne rubo un altro, boh. E il fatto dei consigli è che quando te li danno che non li chiedi, vai per forza sul generico e non serve. L'altra volta stavo al McDonald's, arriva questo e mi fa: se ti vuoi suicidare devi tagliarti le vene in verticale e non in orizzontale, così mori sicuro. E io avevo chiesto un McFlurry, dico, me lo fai? Non me lo fai? Funziona la macchina? Che? Se può? Non, bah. Ma le persone che più mi danno dei consigli di merda sono le mie amiche femmine. Le uniche persone le quali sono sicuro mi hanno dei consigli per farmi arrestare. Perché io gli ho chiesto, anche a me amore dei fatti, non so se avete visto che è successo a Rimini con gli alpini, già avete una mezza idea, hanno parlato tutti. Secondo me è partita già, allora facciamo una parentesi, secondo me già era partita male in partenza la donata degli alpini a Rimini, cioè chi ci ha avuto l'idea di fare la donata degli alpini al mare? Chi ha avuto questa idea? Questi stronzi sono stati confusissimi, cioè andare all'autobus, ma quel lago è enorme. Franz? Ja? È salato, afrodisiaco, capito? Sappiamo come andare a finire. Bah, strano. E quindi mi sono detto, so che ci sono queste persone che molestano e fanno la roba come gli alpini, cosa posso fare la notte? Perché so che i ragazzi hanno paura la notte di camminare, cosa posso fare per migliorare il mio comportamento? E mi hanno dato questi consigli di merda. Cioè, il primo che mi hanno dato, mi hanno fatto, se tu stai camminando la notte per strada, c'è una ragazza davanti a te, tu stai dietro, state solo voi, fa in modo di superarla così che lei capisca che non la stai seguendo. Sembra. Ma se lei comincia a correre, la inseguo, la rincorro, oh, dove cazzo vai? La sorpasso, vaffanculo, che fatica, fate stare tranquilla, non funziona così. La seconda cosa che mi ha detto, ha fatto, segnala la tua presenza. Vi ricordo, nello scenario sono le 3 di notte, quindi tipo tu stai camminando, magari tu stanotte torni in casa, stai camminando, magari non c'è manco paura, no? E se tipo da dietro senti, ehi, te giri e ci sto io, ciao, volevo solo dire che io sto qua, ok? No. E la terza cosa che mi ha detto, mi ha fatto proprio capire che ha preso la cosa da analista e me l'ha schiaffata in chat, mi ha detto, se vedi che la situazione si fa pericolosa, intervieni. Io sono 1,70 m per 60 kg, stronza, vuoi che ci stupra tutti e due? Io ho fatto judo, ho fatto schifo a judo, ho fatto 10 anni, ho fatto schifo 10 anni, tutti e 10, manco dici l'ultimo, no, schifo sempre. L'ultima volta che sono arrivato secondo a una gara, era anche l'unica, era una gara di beneficenza, quelli bravi non erano venuti, e al primo gli mancava una gamba, che è importante a judo. Quindi, se devo lasciarvi con un messaggio sociale, se voi ragazze stanotte state tornando a casa, state da sole, arriva un gruppo di alpini che vi vuole molestare e ci sono solo io. Mi dispiace. Buona serata, grazie. Andrea Fadenti, Valerio Rò, i padroni di casa sono pregati di venire nel posto in cui... Ok, ok, venite. Simone Luzzi. Bon, com'è? Dobbiamo chiedere i soldi. Ma aspetta, li abbiamo già chiesti. Ma chiesto, più gentilmente questa. Questa è un'offerta libera. Questa la chiedi, gente che si... Vabbè, già... stiamo chiedendoci. C'è gente che si è già alzata. Chiediamo i soldi, via. Signora, no, chiediamo i soldi. Lei si alza, è brutto tempismo. Fa una brutta figura con tutti. Non è che lo fa per me, a me non me ne frega allora, un cazzo. Allora, secondo me è un trucco della figlia. La mamma non voleva alzare. Sì, sì, sì. La signora non fuma neanche. No, sto scherzando, signora, ci mancherebbe, faccio quel cazzo che vuole, ci mancherebbe altro. Aspetta, viene da piangere. Fadenti, scusami. Posso dirti che, allora, di serate brutte ne abbiamo fatte, ma forse questa, come questa, forse è il nostro capolavoro. Sì, forse sì. Grazie, siete stati... Dovremmo vederci fra 15 giorni, però fra 15 giorni, santo, forse, perché loro hanno delle installazioni di sinistra e quindi noi passiamo a... comunisti, sì, sta roba da comunisti. Quindi noi andiamo la settimana dopo e dovrebbe essere il 13 giugno. 13 giugno, quando forse si starà benissimo qua come clima. Esatto, allora io mi aspetto che tornino solo i pelati. Perché comunque... Vuoi dire la, farla come chiusa proprio di tutto la tua celebre domanda sui pelati? No, vabbè, ma immagino... Cioè, sì, un dato di fatto però. Chiedilo per chi non è pelato, magari non la sa. Signora francese, è vero che lei, quando concede l'onore e il privilegio a un pelato di portarla a letto, si fa scoppare con la testa? Dice di no. Io tra l'altro hai fatto un attimo così, hai fatto. Io tra l'altro Io tra l'altro ti ho detto fai la domanda sui pelati, non coinvolgi la signorina nel rapporto con la testa. È che mi sembrava un'esperta di pelati. Allora, tu hai dovuto sempre aggiungere la parte in più. E vabbè. Che dire? Io dico, il 13 vi stiamo avvisando che noi ci saremo, quindi... Chiudiamo dicendovi, perché ci sono delle buste, se vi siamo piaciuti, non vi siete rotti in cazzo e non avete pagato l'ingresso, qualsiasi offerta, ebbene accetta, che noi la dividiamo con tutti i comici che si sono esibiti stasera. Secondo me stasera 4 euro a testa li facciamo. Ah, guarda, anche quel cinquino. Signori, è stato bello. È stato un piacere, grazie. Grazie a tutti. Viva le Madonne!